prima della classe. Forse sarebbe stato meglio se avesse tipo messo la testa a posto sotto stretto consiglio di chi ha trovato la strada giusta, giusto in tempo che mi renda conto in meno di un secondo. Gira tondo, casca il mondo, ma non siamo più per terra. Jenny combatteva col sorriso la sua guerra. Jenny viveva già da sola, un gatto una parola, Troia non ci badava, la odiava, ma solo quello la pagava. E il marciapiede strangolava la sua voglia di sognare, di correre nei prati, volare, e come bolle di sapone di scoppiare. Di felicità, bella, fermati qua, non ti capisco, ma come cazzo si fa ad andare avanti così? Jenny mi riconobbe dopo un po', bello sgomma, qui non è aria per te. Fiocca come la neve questa roba che scotta. Ne è passato e lo confesso, dal primo bacio dato a scuola nel cesso. Ti guardo mentre corre sulle labbra il tuo rossetto. Jenny si tingeva di rosso i suoi capelli a caschetto, calzerette, reggipetto, per far contento chi col doppio petto rallentava col duetto. Giù il sedile presto fatto, contatto, Jenny appena premo lo skinny, ti faccio un bel ritratto. Jenny batte come un'onda sugli scogli, Jenny che si vende all'autogrill due coche ed un camogli. Jenny si faceva bella in passerella per la strada questa notte. Viene a scoprire il valore delle stelle. Jenny che da piccola ha mangiato sempre troppe caramelle. Jenny d'amo, al contrario, conosco un genere di tipe, acqua e sapone, studiano dalle suore, ma sono e restano puttane che si vendono per un cerchione in lega ad uno spoiler. Triste storia che non apprezzo, sul cubo e poi sul letto, amano il cubetto di ghiaccio e ti danno del vigliacco, ma sono sex machine da 9 settimane e mezzo. Ma scopava, dava l'impressione di godere. Jenny fu trovata lungo un fiume, i suoi occhi spalancati, sui piedi scivolati giù dal ponte, capelli rossi bagnati e coperta. Non si muoveva, ma sorrideva, sorrideva la sua vita di merda, conclusa con un tuffo nel passato alla ricerca di un amore mai trovato ed un ricordo calpestato lungo quella strada dove Jenny si trovava e si fumava quella sigaretta che spegneva e poi gettava al solito posto, bella tutti quanti in stacco. Jenny d'amore, che fine ha fatto? Lascia stare questa storia.